Ach, hör. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. Radio Aktion. We'll be right back. Radio Azione, diretta d'azione del 4 febbraio, come ogni lunedì anche oggi partiremo, faremo lettura e controinformazione. Oggi si inizia con un nuovo libro, Antracide, libro sempre dello stesso autore degli altri due precedenti che si è letti già, Metal Hurlant e Black Flag. Con questo terzo capitolo chiudiamo Pantera e poi dopo si vedrà. Chi vivrà, vedrà. Allora, ricordo gli indirizzi utili per radioazione, per la mail, per comunicati, locandine e quant'altro: radioazione@audistici.org. Per il blog invece, dove trovate sia le notizie che vengono lette durante le dirette, più opuscoli da scaricare, video, approfondimenti, radioazione.noblogs.org. Allora, visto che il libro è Antracide, ovvio si partirà con un brano degli Anthrax, Death Rider, e poi dopo si torna qua e si inizierà questo nuovo libro. Febbraio, riprendiamo le nostre letture su Radioazione e incominciamo Antracide, l'ultima avventura del Palero Pantera, che si muoverà questa volta per i luoghi neri delle miniere americane, sempre nello stesso tempo, cioè la fine del XIX secolo, gli Stati Uniti ancora non diventati quello che sono poi diventati, e in un contesto particolarmente ingrigito e nero. e auguriamo un buon febbraio nero a tutti coloro che ci ascoltano e anche a quelli che non ci ascoltano. 1. Tamaka. Pantera smise di contemplare distrattamente, attraverso il finestrino, la landa brulla e grigiastra che il treno stava attraversando. Lanciò un'occhiata a Molly, seduta di fronte a lui. La donna dormiva con la bocca aperta, la testa che le ciondolava di lato, avvolta dai capelli lunghi e rossi. In momenti come quelli, il viso slavato e lentigginoso di lei appariva quasi bello. Merito forse della capigliatura sciolta che nessuna donna costumata si sarebbe permessa di portare. Più che un ricordo del suo passato di prostituta, l'acconciatura era un indizio delle circostanze drammatiche in cui avveniva il viaggio. Il controllore si accostò per l'ennesima volta. Pantera sfiorò con la destra la Smith & Wesson 1869 che gli rialzava lo spolverino all'altezza del ventre. L'arma più potente che era riuscito a trovare durante la fuga verso nord. Un vero gioiello della tecnica. Non l'aveva ancora provata. E lo metto in divisa, da un'ora buona, stava facendo di tutto per proporsi quale bersaglio. Aveva proprio la fronte adatta ad ospitare un buco calibro 44. «Fatemi vedere di nuovo i biglietti», disse il controllore, e increspò le sopracciglia nere e sottili con severità. Pantera evitò di sollevare lo sguardo, in segno di disprezzo, ma anche per impedire all'altro di cogliere nei suoi occhi i sintomi di una collera pronta a debordare. «È la terza volta che me li chiedete qual è il vostro problema». «Siete voi il problema», esclamò l'ometto senza alzare troppo la voce. Indicò con un gesto smisurato il gentiluomo e le dame seduti all'altra estremità del vagone, a debita distanza dai due passeggeri anamani. «Qui ci sono i signori che chiedono come mai un viaggiatore della pelle scura possa stare in questa carrozza, quella per i negri, i cinesi e i manovali, è l'ultima proprio dopo di questa». Pantera guardò finalmente il controllore, non lo fissò negli occhi, piuttosto contemplò con aria incuriosita le lettere d'argento RR, Reading Railroad, che gli ornavano il berretto, di colore blu scuro come il resto dell'uniforme. «Perché vi sembra un negro?» chiese con voce neutra. «No, però tanto bianco non siete, mi si direbbe messicano. Quanto alla signora che è con voi, ha un aspetto molto, ecco, irlandese». Il controllore pronunciò l'ultima parola con la ritrosia di chi sta proferendo contro voglia una frase oscena. «E ciò che cosa ha a vedere con i biglietti?» L'ometto stava per rispondere, ma si accorse da sé che la replica era insensata. Dopo un tremolio delle labbra, sotto i baffi biondi arricciati, finì col dire: «Non fate storie, datemeli e basta!» In quel momento Molly si svegliò, si guardò attorno, un po' inebetita. Dal finestrino si scorgevano colline spoglie. Più lontano, una piatta concentrazione di edifici annunciava forse un abitato, a meno che non si trattasse dell'ennesimo campo minerario. Il sole era alto, però, e il cielo aveva alcunché di spento. «Siamo arrivati?» chiese la donna e si stirò con grazia. «Signora», disse il controllore dando alla parola un senso ironico che accentuò con una smorfia leggera. «C'è chi mi ha chiesto se quest'uomo, che non vuole farmi vedere i biglietti, sia un vostro servitore». Molly atteggiò il viso in espressione sbalordita. Prima che potesse rispondere, però, si udì un cigolio acutissimo. Il treno rallentò di colpo, facendo cadere alcuni bagagli dalle reticelle. Lo scossone fece traballare il controllore e lo costrinse ad aggrapparsi ad uno degli schienali per non perdere l'equilibrio. Pantera si trovò appoggiato al velluto verde del sedile col gomito destro. Subito si drizzò e riportò le dita a contatto con la rivoltella. Non appena il vagone si assestò, uno dei gentiluomini scattò in piedi. Si aggiustò alla meglio il cappello a cilindro. «Ma cosa diavolo succede?» «Non lo so, signor Ramsay», disse premuroso il controllore. «Ora mi informo». Non fu necessario. Prima che avesse raggiunto l'altra estremità della carrozza, lo sportello si aprì. Un individuo dai baffi neri e dall'aria dura sporse la testa e si guardò intorno. «C'è posto?» disse qualcuno all'esterno. «Possiamo sistemarli qui». «Sistemare chi di grazia?» chiese esasperato il gentiluomo di nome Ramsay. «I prigionieri. Da qualche parte dobbiamo metterli. Il vagone dei manovali è sempre pieno da scoppiare». «Prigionieri». Le dame lanciarono strilli, i loro uomini, cinque in tutto, scattarono in piedi. «Ma non è possibile, è un'indecenza, è uno scandalo!» L'individuo baffuto entrò nel vagone mentre un altro avanzava alle sue spalle. Pantera li squadrò. Indossavano divise che li facevano assomigliare a militari, con tanto di berretto largo con visiera e di gradi sulla manica, solo che non erano affatto uniformi dell'esercito. Quando uno di questi soldati di fantasia si avvicinò, forse per controllare che nessun passeggero avesse armi, Pantera notò un grande distintivo a forma di scudo. vi era incisa una scritta Coal and Iron Police. Inoltre quelle guardie stringevano in pugno fucili che l'armata federale si sognava di avere. Winchester 73, suppose il messicano. Ne aveva sentito parlare e sapeva come erano fatti, ma li vedeva per la prima volta. Erano ancora più belli di quanto si dicesse. Il controllore esitò un poco, poi decise di abbracciare la causa dei passeggeri. Questo non è un convoglio per il trasporto dei detenuti. Io non ho avuto istruzioni circa... Zitto! Si limitò a dire il tizio baffuto. Gli bastò scuotere il fucile per ottenere obbedienza. E zitti anche voi! Dame e gentiluomini ammutolirono e si lasciarono ricadere sui sedili. Pantera era soddisfatto della piega che stava prendendo la situazione. Ormai il controllore non era più un fastidio e i passeggeri non pensavano più a loro. Guardò Molly, anche lei appariva rilassata. Si era girata a contemplare gli uomini armati che stavano montando uno alla volta. Pantera diede un'ultima toccatina alla Smith & Wesson, poi ritrasse le dita e le poggiò sul ginocchio. Gli individui in uniforme ne salirono 7, tutti con la stessa faccia burbera. L'ultimo restò accanto allo sportello e, passato il Winchester nella sinistra, tenne il braccio fuori. Si udì un tintinnio, quindi un nuovo personaggio senza divisa introdusse la testa e offrì i polsi stretti da manette. La guardia lo aiutò a salire. Era un uomo giovane e biondo, con baffi folti e lunghe basette. Nei suoi occhi blu scuro si leggevano umiliazione e sorpresa, ma anche una traccia di collera. Fu il primo di una lunga fila mantenuta unita da una catena. Questa, fissata da ogni caviglia destra da un anello, faceva di quegli uomini una collana umana. Pantera si era aspettato un gruppo di criminale, però quei prigionieri non ne avevano l'aria, tutt'altro. Il loro abbigliamento, giacche, giubbi, cappotti, era povero ma non trasandato. Si notavano anzi sugli abiti più logori rammendi accurati, pensati per mantenere una parvenza di decoro. Quanto ai visi, le barbe erano ben curate e i baffi in media folti, sagomati con attenzione. Gli occhi di alcuni erano collerici ma intelligenti, quelli di altri rassegnati senza essere pavidi. Prevalevano le stature basse, le carnagioni pallide e i capelli rossi oppure neri. Fu complicato per rivedere le catene sistemare quegli uomini sui sedili liberi. Il tentativo era ancora in corso quando il gruppetto dei passeggeri di rango uscì dal proprio sbigottimento. Prima di alzarsi, fu una furiosa signora ancora giovane, dalla velletta sollevata sulla testa di un elegante cappello da caccia. Storse le labbra graziose e puntò il dito. «Che siate maledetti!» urlò. «Siete la rovina di Sky Hill Country!» Una ragazza bruttissima, forse la figlia, le fece eco. «Io non posso viaggiare con una marmaglia così! Puzzano! Meglio i cinesi di questa gente!» Il petto prorompente le ansimava sotto il tagliere attillato. Il più indignato però era Ramsey. Si rivolse direttamente all'uomo baffuto che pareva comandare le guardie. Scosse l'indice. «Metterci a contatto con queste canaglie è un oltraggio. Non so se mi avete riconosciuto, capitano. Sono Robert Ramsey, il direttore del Miners Journal. Posso fare uno scandalo se voglio». L'interpellato si torse il berretto, ma l'apparente ossequio dissimulava ironia. «So benissimo chi siete, signor Ramsey, perdonate l'incomodo. Considerate che se questi agitatori sono in manette è anche per assecondare il vostro giornale e le sue opinioni sullo sciopero. Ma non potete portarceli qui. Ho degli ordini e quindi li eseguo. Agitatori». Pantera ne aveva abbastanza di agitatori. Durante il suo soggiorno in Messico, subito dopo la guerra civile, aveva conosciuto utopisti di ogni genere, pronti a sciorinare campionari di ricette per migliorare la società. Quella gente non faceva per lui. Guardò Molly che continuava ad osservare con occhi attoniti ciò che avveniva nel vagone. «Bene, si scende», le disse, «prendo io il bagaglio». La donna accentuò lo stupore un po' ottuso che, con varie gradazioni, aleggiava in permanenza nei suoi tratti. «Ma non siamo mica in stazione». «Fa lo stesso. Si vede una città poco distante». «E quale città?» «Non lo so e non mi importa. Ciò che conta è che siamo ben lontani dal Texas». L'intento di Pantera era di uscire dalla porta opposta a quella da cui erano saliti guardi e prigionieri, in modo inavvertito, se possibile. Ciò non sembrava complicato. Il milite che aveva ispezionato il corridoio era tornato indietro. L'alterco tra uomini armati e passeggeri eleganti stava salendo di tono e i detenuti non partecipavano. Il messicano guardò i prigionieri. Si erano accomodati alla meglio su sedili liberi e la catena che li univa scavalcava gli schienali. Alcuni avevano chiuso gli occhi, altri, i più, tenevano la testa bassa e fissavano il pavimento in legno tra i loro scarponi. Pantera si alzò, prese la grossa borsa di tela della rete e mosse verso lo sportello che aveva alle spalle. Lo aprì con facilità. Vide Molly andargli dietro. Il controllore lanciò loro un'occhiata perplessa. Ma aveva altro a cui badare. I viaggiatori di rango sembravano tutti presi dalle proteste che cadevano nell'indifferenza glaciale delle guardie. Tra un vagone e l'altro lo spazio non era molto, però sufficiente per scendere la scaletta del terrazzino di metallo e poi raggiungere terra con un piccolo salto. Pantera eseguì e aiutò Molly, ostacolata dalla gonna ampia, a venire giù a sua volta. Le guardie che non erano montate dovevano essere rimaste dall'altra parte del convoglio. «Giriamo attorno al treno, andiamo a piedi fino all'abitato», ordinò Pantera, e poi aggiunse: «Non fare caso a quelli». Alludeva ai passeggeri dell'ultimo vagone che gli guardavano dai finestrini. Alcune delle facce che si sporgevano a grappolo erano nere e lucide, parevano però quelle bianche, con occhi grandi e capigliature rossicce. Pantera pensò che lì, quali che fossero la regione e il luogo, negri irlandesi venivano messi sullo stesso piano. Per lui, che aveva una parte di sangue africano nelle vene, e per Molly, non sarebbe stato facile venire a trovare alloggio in città, specie se avessero chiesto di dormire assieme. Ciò in realtà non era necessario, se non a scopo di risparmio. Non erano amanti, non ci pensavano nemmeno. Quando lei era stata più giovane e un po' meno brutta di adesso, Pantera l'aveva penetrata alcune volte, tanto per sfogarsi. A quei tempi Molly era una prostituta, l'unico genere di donne che attraesse Pantera in quanto non impegnativa. Durante la guerra in Messico contro Massimiliano d'Austria, il rapporto tra i due era stato rigorosamente casto. Dopo, il messicano l'aveva perduta di vista per parecchi anni, fino alla lettera che gli proponeva un contratto che gli regalava un anticipo in contanti. «L'abitato non è tanto vicino», si lamentò Molly una volta che ebbero aggirato il vagone. La locomotiva recante la scritta «Yawata» sulla fiancata si stava rimettendo in moto con qualche fischio e uno sbuffo di vapore. «E poi qui attorno è tutto così triste». «Abbiamo alternative?» replicò Pantera sarcastico. Le passò la borsa, odiava avere le mani impegnate. «Sei tu che sei voluta venire fin qua, se il passaggio ti fa schifo dovevi pensarci prima». In cuor suo però le dava ragione circa lo squallore del luogo. Tutto attorno non c'erano che colline nude, prive del fascino scarbo delle regioni desertiche del meridione. Nemmeno il sole alto riusciva a rallegrare rilievi mozzi e curvi, dalle pendici grigi e dalla sommità nerastra. Alcune cime da quella distanza somigliavano a semplici cumuli di cenere e di sassi. Qua e là, tra i pendii, si elevavano altissime torri in legno, accanto a depositi a grandi ruote immobili. Si vedevano edifici smisurati, fatti di baraccamenti addossati l'uno all'altro, talora uniti da scale sospese. Erano di sicuro opifici per la lavorazione dei minerali e tuttavia non si notavano tracce di attività. Partito il treno, un manipolo di guardie della Coal and Iron Police si incamminarono verso l'abitato. Pantera prese la stessa direzione a debita distanza. Quelli conoscevano il cammino molto meglio di lui. A un certo punto interpellò Molly, che ansimava, mentre a schiena inarcata cercava di reggere il bagaglio troppo pesante. «Come si chiama la città in cui abitano i tuoi parenti?» «Tuscarora». «Come il fiume?» «Il fiume che dici tu è in Virginia, qui siamo molto distanti». Lo so, Pennsylvania, Schuylkill County. Mai visto niente di così brutto». Da quel momento smisero di parlare. Persero di vista le guardie che marciavano più spedite. Avevano intanto raggiunto una strada pietrosa fiancheggiata da alberi stentati e da cespugli verde pallido. La sovrastavano castelli spettrali di travi annerite, opifici in abbandono, con finestre a riquadri dai vetri rotti che davano sul buio. Il cielo era senza nubi, però faceva freddino. In quel momento a Santa Fe, da dove il loro viaggio era iniziato, c'era gente che si lamentava del giugno troppo caldo del 1875. «Non dovevi uccidere un ranger del Texas», disse Molly senza preavviso, mentre passavano rasente orticelli abbandonati ricavati tra i baraccamenti. «A volte ammazzi la gente senza pensare alle conseguenze». Pantera scosse il capo. «Ti sbagli. Penso sempre alle conseguenze. Il ranger di Santa Fe era un indemoniato. Il mio mestiere è uccidere gente così». «Ma avevi già accettato il mio contratto!» «È vero. Però non è mia abitudine lasciare altri contratti in sospeso». D'improvviso Pantera abbandonò il sentiero e si inoltrò in un piccolo campo irto di stoppie, senza curarsi se Molly lo seguisse o no. I suoi stivali fecero scricchiolare gli spuntoni rinsecchiti, unica sopravvivenza di colture morte ormai da mesi. Si fermò di fronte ad uno spaventapasseri conficcato al centro dell'appezzamento, come se davvero potesse esistere un uccello interessato a quel fantasma di vegetazione. Il fantoccio consisteva in un busto bruciacchiato, avvolto da una lunga mantella sporca, ma di tessuto fine, che la brezza sollevava ad ogni refolo. Il viso, anch'esso annerito dal fuoco, era un comune sacchetto gonfio di paglia, e sul capo altra paglia simulava una capigliatura femminile. Qualcosa aveva salvato quei materiali combustibili dal rogo. Al collo portava una ghirlanda di rampicanti che Pantera non conosceva. A giudicare dal colore dei rametti e dalla freschezza delle bacche uscite indenni dalle fiamme, la si sarebbe detta un sempreverde. Il messicano rimase immobile di fronte allo spauracchio finché Molly, trafelata e stravolta dalla fatica, non lo ebbe raggiunto. Allora le indicò la ghirlanda. «Sai che arbusto è questo? Non ne ho mai più visto di simile». Prima di rispondere, Molly attese che il fiatone si calmasse. «Non lo so, però ho già avuto modo di vedere corone quasi uguali in Irlanda quando ero piccola. Ornavano spaventapasseri? Erano un po' dappertutto, anche sulle porte o dentro le case, sul caminetto. Non lo so per certo, ma immagino che scongiurassero il malocchio. Simboleggiavano il denaro. C'era chi li chiamava ramo d'oro». Pantera tacque e inspirò profondamente attraverso le narici. Sentiva che in quel luogo aleggiavano un pungus, spiriti di natura indefinita, senza una precisa connotazione positiva o negativa. Fu tentato di estrarre dalla borsa in mano a Molly il Nganga e gli strumenti rituali per tentare un'evocazione. Rinunciò. Quali che fossero le entità richiamate dallo spaventapasseri, non potevano avercela con loro. E poi, alla sua sensibilità, risultavano abbastanza deboli. Tanto valeva proseguire. «Andiamo», disse a Molly. «Dai a me il bagaglio, deve essere pesante». Lei obbedì e gli sorrise. In realtà Pantera non era divenuto di colpo galante. Più semplicemente, sparite le guardie, lì attorno non si vedeva nessuno. Si affievoliva la prospettiva di dover estrarre la Smith & Wesson da un istante all'altro. Per arrivare nell'abitato, ampio e adagiato sulla riva di un fiume, ci volle un'ora buona. Lungo il cammino la vegetazione già scarsa e stentata si era ulteriormente diradata, direttamente questa volta per mano dell'uomo. Passate le colline, la piana era fitta di magazzini, capanni, depositi, tratti di binari, tutti in apparente stato di abbandono. C'erano anche abitazioni civili in legno e qualche volta in mattone, ma i caminetti non fumavano e le porte erano sbarrate. Se qualcuno ci viveva, se ne stava rintanato, niente bestiame attorno e nessun animale domestico visibile. Qualche corvo che gracchiava nel cielo sorvolava orticelli dall'apparenza fertile. Peccato che, dove c'erano forse stati cespi e radici, ora si vedessero solo buchi neri tra zolle di terra un tempo grassi. Il nome della cittadina, scritto a vernice su una tavola inchiodata su due paletti, strappò a Pantera un'esclamazione. «Non è Shenandoah, è Tamaqua, ti dice qualcosa?» Sebbene libera dal peso della borsa, Molly aveva un'aria molto stanca. Sulla pelle chiara del suo viso le chiazze di Eferidi si erano arrossate. «È abbastanza vicino a Shenandoah. Ci sta un mio cognato, il marito di mia sorella. In pratica, siamo arrivati». «E sai dove abita?» «Basterà chiedere, qui è pieno di irlandesi. Se è come nel Donegal, ci si conosce tutti». «Tuo cognato è minatore?» «No, gestisci una mescita di birra. Trovarlo sarà facile». La periferia di Tamaqua, fatta di baracche e di casette in pietra, suggeriva anch'essa una sensazione di abbandono, che svanì un poco quando Pantera e Molly si inoltrarono nel centro. Lì le case erano molto più alte e fitte, con negozi e uffici dotati della propria insegna. Lungo la strada principale, un cartello ne diceva il nome, West Broad Street, alcuni calessi senza cavallo si inclinavano sulla mota. L'impressione era triste, ma forse era colpa del cielo grigio. I passanti erano poco numerosi. Gli uomini avevano tutti lo stesso berretto schiacciato sui capelli, la stessa giacca lisa, gli stessi pantaloni larghi. Nessuno di loro portava pistola in bella vista. Però questo Pantera se lo era aspettato. Sapeva che al nord la difesa della comunità era teoricamente delegata ai pubblici ufficiali o, in assenza di questi, ai coltelli a serramanico ficcati in tasca. Ogni maschio in grado di pagarsela aveva la propria rivoltella, ma si guardava bene dall'esibirla. Lo sorprese di più il fatto che anche le donne vestissero in modo uniforme, con lunghe donne nere e veri dello stesso colore che nascondevano i capelli. Se ne vedevano 4 o 5, sembravano tutti anziani e camminavano in fretta a testa bassa, quasi che avessero freddo. La sola animazione era davanti ad un albergo che, per il largo timpano triangolare, somigliava un poco a un tempio greco. L'insegno recava la scritta «United States House». Uomini in tuba, signori eleganti, cocchieri in livrea, loro però si tennero alla larga. «Come si chiama tuo cognato?» «James Carroll. rispose Jim Molly. Jim. Bene. Pantera si accostò a un piccoletto che passava guardandoli con curiosità. Aveva baffi spioventi, il solito berretto e un fazzoletto azzurro annodato attorno al collo, a mo' di cravatta. Sapete dove è il saloon di Carol? L'altro lo squadrò e abbassò un sorrisetto. Volete dire l'albergo di Jim? Aveva un accento buffo, molto gutturale. Del resto anche Molly parlava così. Vedete laggiù quella casa di pietra tinta di rosso, quasi di fianco alla chiesa? Quello è l'albergo. L'ingresso è dall'altra parte, su Light Street, rasente al torrente. Pantera non amava che lo si squadrasse sorridendo come faceva l'uomo. Si mosse per andare, ma lo sconosciuto aggiunse. Adesso il locale è pieno da scoppiare, da Jim è in corso la riunione della WNBA. La gente è anche in strada. La WBA, e che cosa sarebbe? D'improvviso il sorriso scomparve dalle labbra del passante, i suoi modi si fecero sgarbati. Oh, ve lo diranno là, io non ho il tempo per spiegarvelo. E camminò via in fretta, lungo la terra battuta della strada. Tuttavia non doveva essere del tutto ostile, perché già a distante si volse a gridare un ultimo consiglio. La signora che è con voi non può presentarsi da Jim vestita così, datemi retta, andate da solo o fatela cambiare. Pantera rimase interdetto, ancora più grande fu lo stupore di Molly, che farfugliò. Ma cos'hanno i miei vestiti? Prima il controllore e adesso quel... Pantera alzò le spalle. Forse hai troppi colori addosso e ti scambiano per una puttana. In questa città le donne sembrano tutte venire da un funerale, ma se l'albergo è di tuo cognato non dovresti avere problemi, no? La risposta di Molly fu esitante. Non l'ho mai visto. Però siamo della stessa famiglia, gli O'Donnell. Che siano i capelli sciolti. Si toccò l'incerta la capigliatura stopposa come per pettinarla un poco. Non lo so, all'unico che andare a vedere. Mentre camminavano, Pantera si rese conto per la prima volta che gli occhi dei pochi passanti erano tutti puntati su di loro. Ciò non lo stupì molto. Una coppia formata da un messicano dalla pelle scura, stretto in uno spolverino grigio, e da una donna alta e pallida con i capelli rossi e le spalle nude avrebbe fatto scalpore anche all'Aredo. Qui, tuttavia, le espressioni scandalizzate prevalevano decisamente su quelle ironiche o di pura meraviglia. Per fortuna i cittadini in strada sembravano avere i fatti loro a cui badare, ed era probabile che in altri momenti si sarebbe invece formata una ressa. Sul viso scavato di un prete cattolico che sostava sui gradini di una chiesetta di legno sormontata da un mozzicone di campanile, lo scandalo si coniugò ad una palese ostilità. Incrociò le braccia e aggrottò le sopracciglia bionde. Del resto si trovava sulla soglia dell'edificio nella posa di un ufficiale che, dai bastioni di una fortezza, spii l'arrivo di possibili nemici. Quali fossero i nemici lo si poteva desumere dal grande cartello appeso a un lato della porta. Chiesa di St. Lawrence. Questo luogo sacro è interdetto ai membri della Working's Men Benevolent Association e dell'Ancient Order of Hibernians, su disposizione del vescovo Robert Wood di Philadelphia. Pantera capì all'istante il significato della sigla WBA, l'Associazione Benefica degli Operai, ma l'altra denominazione non gli diceva nulla. «Sai che cosa sia questo antico ordine degli ibernici?» chiese a Molly. La donna era molto impressionata dal prete che sembrava osservare proprio lei. Rispose sottovoce: «È una società di irlandesi molto potente. Tutti i miei familiari ne fanno parte, sia in America sia in Irlanda. E c'entra parecchio con l'incarico per cui ti ho assunto». Pantera la guardò di sbieco. «E in che modo? Anche l'individuo che devo scovare e uccidere un ibernico?» La risposta doveva essere assai complessa perché Molly si impappinò. Quando finalmente sembrò aver elaborato una spiegazione, non ebbe modo di formularla. Avevano svoltato l'angolo e raggiunto Lyke Street, una via fangosa che carri e cocchi avevano istoriato di solchi. A fianco scorreva un fiumiciattolo impetuoso. Si trovarono ai bordi di una calca male in arnese e sostava silenziosa davanti a loro alla porta di una costruzione a tre piani tra le più alte della strada e l'unica con la base in pietra. La folla attenta sembrava voler cogliere brani dei discorsi che si facevano all'interno dell'edificio. Una larga insegna sopra l'ingresso annunciava di un assortimento di caratteri Rockwell. Columbia House, Rooms and Taverns, Porter and Ales from Gentleman's Taste. L'avviso pendeva sotto un trifoglio verde, dipinto sui mattoni rossi del primo piano con mano inesperta. Da dentro, dietro ante mobili fatte di assicelle, giungevano frasi scandite oppure gridate. Ciò che bloccò i chiarimenti di Molly fu l'esclamazione di un ragazzino biondo che aveva sul capo un berretto molto più largo del suo cranio. Indossava una giacca marrone lunga oltre le ginocchia. «Guardate! Un negro e una puttana!» Uno schiaffo sonoro, assestato da una matrona nero vestita, impedì che il monello potesse ripetere il grido. «Non dire parolacce, Pat!» Ma ormai il male era fatto. Buona parte della folla si girò a guardare Molly e Pantera. Spuntarono sorrisi sdentati e ammiccanti. Alcuni giovani si avvicinarono. «Oh, ma guarda che bella signorina!» Era ora che a Tamaka apparisse un bordello. «Che schifo! Noi scioperiamo e quella si veste di ricamo e di velluto!» Vi fu chi, ghignante, allungò le mani verso il corpo magro e poco attraente di Molly. Lei, spaventata, si ritrasse. Pantera lasciò cadere il bagaglio senza badare al possibile malumore del ganga. Infilò la testa tra i bottoni dello spolverino e raggiunto il calcio della Smith & Wesson. Portò l'indice sotto la cintura a toccare il grilletto. Col pollice armò il cane. All my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. Screaming as she fell, but I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. Your own place in hell. lovely daughter and throw her in the well. Don't speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. Allora, dopo questo primo capitolo del nuovo libro Antracite di Valerio Evangelisti, diamo anche qualche notizia di contrainfo. Andiamo subito in Grecia, che da praticamente da Indimedia Atene qualche giorno fa è stato riportato dell'arresto dei due compagni Yannis Politis e Dimitris Michailidis, che erano latitanti. Insieme a loro sono state arrestate altre due persone. L'arresto è avvenuto il 1 febbraio. Si ricorda che i due compagni sono accusati di appartenere all'organizzazione rivoluzionale Cellule di Fuoco, le CCF. Inoltre la magistratura sta tentando di accusarli delle rapine a mano armata a due banche. Appena possibile ci saranno degli aggiornamenti. Qualche aggiornamento sull'arresto di uno dei quattro già c'è, dopo lo daremo. Intanto ricordo che nei giorni scorsi ci sono state varie udienze per quanto riguarda il processo alle CCF, e anche di questo ne parleremo dopo. Ora passiamo al prossimo capitolo del libro, poi manderemo un brano e poi dopo daremo tutti gli aggiornamenti sul caso. 2. Columbia House. Bastò il gesto di Pantera a far sì che la folla arretrasse, o forse fu il suo sguardo, o ancora il click ben udibile del cane sollevato. Sta di fatto che i più insolenti tra i presenti cambiarono atteggiamento e si tirarono indietro. Non cessarono per questo gli sguardi, ma adesso erano più cauti. Pantera fece cenno a Molly di raccogliere lei la valigia e si incamminò verso la porta del saloon. Udì un commento alle proprie spalle. Deve essere un uomo di Pinkerton, represse un sorrisetto. Ora le voci che uscivano dall'edificio giungevano nitide e accalorate, si percepivano battute della discussione in corso, talora accolte d'applausi. Dobbiamo prendere atto della realtà, siamo stati sconfitti, i padroni hanno vinto. O torniamo in miniera o le nostre famiglie moriranno di fame. Già adesso mi ci vorrà un anno per pagare i debiti. E che facciamo? Buttiamo via 5 mesi? Chi lo va a spiegare a Sinai? Ci vai tu a dirglielo in prigione? Bada che ti sbagli, Sinai era per mollare già 3 mesi fa, non a casa il gallese. Di noi manovali ce n'è sempre qualcuno che se n'è infischiato. Irlandesi, gallesi, inglesi, ti sembra il momento per tirare fuori le differenze, Duffy? Da quando lo sciopero è iniziato siamo tutti sulla stessa barca. Già, però la barca che affonda è la nostra, come sempre. Padroncini e minatori sanno bene come stare a galla, sono i manovali che annegano. Basta, mettiamo ai voti! Pantera entrò nel saloon con Molly di scorta. L'ultima proposta stava avendo la meglio. Ai voti, ai voti! Gridavano tutti, contrastati in vano dalla voce robusta del primo che aveva parlato. Ai voti che cosa, in nome di Dio? Davvero pensate che possiamo continuare a scioperare? Fosse anche per 3 giorni. Guardatevi, non vi reggete più in piedi. E i vecchi, e le donne, loro sanno peggio. Nessuno fece caso a Pantera quando si arrestò sulla soglia, bloccato da una moltitudine che sudava malgrado la temperatura rigida. Ciò gli permise di abbandonare la postura vigile e di esaminare con calma il locale in cui si trovava. Pipe e sigari facevano aleggiare nell'aria una nube biancastra. Attraverso le sue volute si scorgevano quasi 100 uomini ammassati entro un ambiente che ne avrebbe potuto accogliere poche decine. I tavoloni servivano da sedili, mentre le panche sostenevano gente in piedi. Dietro tutte quelle schiene il bancone di zinco si scorgeva appena. Le specchiere che erano dietro erano attraversate da lunghi scaffali carichi di bottiglie, mostravano però i corpi robusti dei tavernieri e quelli magri degli uomini che avevano di fronte. Tipi tanto emaciati quanto furiosi, che ogni volta che alzavano il pugno mostravano le pezze e gli strappi delle giacche all'altezza dei gomiti. Il più giovane doveva avere 14 anni, il più vecchio circa 40. Quest'ultimo era il taverniere in persona. riconoscibile dal grembiale che gli pendeva sul petto. Non era spettatore passivo, tutt'altro. Da come si sgolava e si torceva, era facile desumere che fosse uno dei capi. «Almeno nel votare datevi un contegno», gridò. «Non c'è tempo per un voto segreto, con tanto di schede infilate nel cappello. Chi è per continuare a scioperare, alzi la mano». La proposta prese molti alla sprovvista, la folla esitò, un po' confusa. Fiorirono bisbiglini. Quindi delle braccia si alzarono, ma erano decisamente poche. «Bene», borbottò il capo del taverniere. «La maggioranza dei manovali di Tamaka vuole tornare al lavoro. Naturalmente, perché la decisione sia valida, bisogna comunicarla alla WBA. Vedrò di occuparmene io». Un giovane dalla zazzera incolta, che continuava a tenere il braccio destro alzato, protestò con voce acuta. «Non hai il diritto di farlo, Jim. Questa è una riunione più degli ibernici che della WBA. Votare non ha senso». «Già, e allora perché tu stai votando?» Pantera, che aveva concentrato la sua attenzione sul taverniere dopo che aveva sentito il ragazzo chiamarlo Jim, ammirò la pacatezza e il carisma dell'uomo. Aveva un viso largo e, a differenza della maggior parte dei presenti, completamente glabro. In compenso, una capigliatura riccia di un castano chiaro gli scendeva fino alla nuca, sfiorando il colletto. Il naso curvo, la bocca dal taglio duro e gli occhi grigi autoritari facevano somigliare Jim Carroll a un senatore, stando all'iconografia degli uomini politici ricorrente nelle gazzette e nei manifesti elettorali. «Sapete che cosa vi dico?» gridò un uomo dal forte accento tedesco che sembrava fuori di sé, vestiva di grigio e se ne stava a due passi da Pantera. «Questa riunione con lo sciopero non c'entra nulla, è una faccenda interna agli irlandesi, non è un caso se vi sono state ammesse persino delle donne, tanto per fare numero. A me piacciono discussioni serie, dunque me ne vado!» Una sola frase di quello sfogo colpì la platea. «Donne? E quali donne?» cominciarono a chiedersi tutti. Finì che l'attenzione generale si concentrò su Molly. Era l'unica donna presente. Pantera, che si trovava al suo fianco, provò una sorta di imbarazzo. Ma ormai non c'era modo di sottrarsi alla curiosità. «La spilungona con la borsa?» chiese il taverniere dopo aver percorso con la sala gli occhi. Nel frattempo, attorno a Molly e a Pantera si era formato un piccolo vuoto grazie a una miracolosa compressione dei corpi. «Non l'ho invitata io, non so chi diavolo sia. Chi sei, figliola?» «Sono tua cognata, Jim, sono Molly». La voce della donna era fievole e timida, ma giunse il taverniere che apparve sbalordito. «Molly? Molly O'Donnell per caso?» «Proprio io». «Sei capitato in un bel momento. Su ragazzi, fatela passare». Adesso gli astanti erano diventati molto rispettosi. Un ragazzo grasso, dalla camicia a scacchi, le prese la borsa. Un uomo barbuto aprì le braccia per formare un corridoio. Molly, impettita per quelle attenzioni, gli si infilò a testa alta. Pantera approfittò del bacco e la seguì. Detestava la situazione, ma non poteva fare altro. «E chi è l'uomo con la faccia scura che è con te?» chiese Jim Carroll quando Molly raggiunse il bancone. «Di norma, i tipi come lui qui non li voglio, né negri né mulatti. È un amico». «Vabbè, ne parliamo dopo. Adesso metti da parte e lasciaci finire la riunione». Nel salone le voci tornarono a farsi alte, anche perché qualcuno, mentre il tedesco usciva, aveva tentato di fargli lo sgambetto. Ci fu un piccolo parapiglia sedato da Jim Carroll. Questi poggiò i pugni chiusi sul banco, si curvò in avanti e urlò. «La riunione è sciolta, la sezione della YBA, della WBA di Tamaka chiede all'associazione che si torni in miniera. E se qualcuno è per questa decisione, ci tratta da vigliacchi, stia in guardia quando torna a casa. Quando gli irlandesi si piegano è solo perché non hanno alternative». «La lotta è finita dunque?» domandò quasi accorato un giovane scheletrico dalla cima di un tavolo. Carol aggrottò le sopracciglia. «No, Paddy, è lo sciopero che è finito, non la lotta», rispose. Dopo quella frase enigmatica, il taverniere trascurò ciò che avveniva nella sala e riservò le sue attenzioni alla cognata. «Sapevo di te, ma non ci siamo mai visti», disse a Molly con una traccia di sorriso. «L'ultima cosa al mondo che mi aspettavo era che tu capitassi qua». Si curvò oltre il bancone a baciarla sulla guancia. Subito dopo guardò Pantera. «Chi è quest'uomo? Il tuo domestico? Non ti facevo tanto ricca». «No, no, niente affatto», protestò Molly. «Forse mamma Margaret e gli O'Donnell di Wigan's Patch ti hanno parlato di lui. È il palero messicano che ho assoldato per il vostro conto». «Palero? Che cosa vuol dire? Che razza di lingua è?» «Oh, è complicato. Comunque è l'uomo che deve uccidere la spia». Pantera si accorse che, di colpo, il disprezzo che lo circondava era svanito. Sia il taverniere sia gli altri giovani dietro il bancone lo guardavano con rispetto. Gli parve persino che quel mutato atteggiamento contagiasse la clientela. È vero che i più stavano già uscendo, ma anche gli ultimi curiosi lanciarono un'occhiata cauta al banco prima di unirsi alla coda. Non possiamo rimanere qui, annunciò Carroll d'improvviso nervoso. Con uno sguardo bloccò i garzoni che si stavano avvicinando. Molly, anche voi, signore, andiamo nella stanza qui dietro, parleremo meglio. A Pantera ci vollero alcuni istanti per capire che il termine signore era riferito a lui. Non accadeva spesso. Prese la borsa dalle mani del ragazzo grasso e seguì gli altri oltre una porticina di fianco al bancone, sotto la rampa in legno della scala che conduceva ai piani superiori. Il bugigattolo in cui entrò era illuminato da una sola lampada a petrolio, posata sul coperchio piatto di un baule. C'erano cordami, barilotti, una vanga e due fucili Sharps. La polvere ingrigiva ogni cosa. Jim Carroll si lasciò cadere sul baule, che resse il suo peso senza cigolare. Ignorò Molly e guardò Pantera. «E così siete venuti ad aiutarci?» Il messicano posò la valigia. «Io non aiuto nessuno. Servo chi mi paga. In questo caso Molly.» «Esatto. Io ho solo fatto da tramite», obiettò la donna. Era palesemente stanca e poggiava la schiena ossuta sulla parete. «Ho ricevuto il denaro da Shenandoah A con la lettera di mio fratello Friday. Sapeva che in passato ero stata in Messico con un cacciatore di taglie di nome Pantera e mi pregava di rintracciarlo. L'ho fatto. Dovevo portarlo a Shenandoah, ma delle guardie hanno fermato il treno per caricarlo di criminali. E così, eccoci qua.» Carroll annuì. «Quelli che chiami criminali sono i dirigenti della Working Men Benevolent Association, re di avere condotto per 5 mesi uno sciopero nelle miniere. Ma queste sono cose che voi due non potete sapere.» Fissò Pantera e fu chiaro che lo studiava. «Signore, forse è inutile che andiate a Shenandoah. Qui a Tamaka il problema è lo stesso e si chiama Gowen.» «Gowen? Non so chi sia. Stando qui lo sapete in poche ore. Ditemi piuttosto, Molly vi ha definito un cacciatore di taglie. Lo siete per davvero?» «No, per niente.» Pantera giudicò fastidiosa la domanda, ma non trovò ragioni per diffidare. «Non incasso taglio e disprezzo chi lo fa. Chi mi assolda di solito mi chiede altri servizi.» «Ti ho detto che è un palero», intervenne Molly. «E che cosa vuol dire palero?» Era l'ultima delle domande a cui Pantera avrebbe risposto. Molly provvide in sua vece, come poté. «Lui è una specie di stregone in contatto con le potenze dell'aldilà. La magia che pratica, non magia, ma religione», corresse brusco Pantera. «Sì, religione, è antichissima e si chiama Palo Mayombe. Viene dall'Africa, non so spiegato, ragino, ma ha a che fare con spiriti, non so che se sono buoni o cattivi, però sono molto potenti. Pantera viene chiamato ogni volta che un demone appare sulla terra, incarnato in un uomo. Per esempio Frank e Jesse James erano...» Questa volta la reazione di Pantera fu violenta. «Taci, donna, non ti permettere mai più di parlare del mio passato.» Non sollevò la mano per minacciarla di un ceffone, ma fu come se l'avesse fatto. Molly si schiacciò contro la parete con il terrore negli occhi. This is the time I rise again, and I feel stronger than before. Questi erano Terminal Choice con il brano Fight the System. Per chi non ha mai ascoltato le letture, si cerca sempre di prendere qualche brano bene o male affino all'ultimo capitolo che è stato letto. Allora, noi continuiamo con la controinformazione. Invece, avevo detto prima dell'arresto dei compagni il 1 febbraio, abbiamo un aggiornamento in base a questo arresto. Per quanto riguarda specialmente Andreas Dimitris Bouzoukos, dopo aver contattato i genitori di Bouzoukos, Andreas Dimitris, i compagni greci ci informano di quanto segue. Praticamente tutti i detenuti sono stati spostati alla questura generale di Attica da sabato 2 febbraio, in tardissima serata. A mattino i genitori sono riusciti ad entrare in contatto con i loro figli, così come i loro avvocati. Fino ad allora la polizia ha negato tutte le loro richieste, sono stati dati solo 15 minuti al 12esimo piano della questura generale di Attica. Andreas Bouzoukos è stato ammanettato alla sedia per tutto il tempo. Egli ci ha informato che nella cella dove è stato detenuto a Kozani è stato ammanettato con le mani dietro alla schiena, gli hanno messo un cappuccio sul viso, lo hanno fatto inginocchiare e lo hanno picchiato per 4 ore sulla testa, al volto, allo stomaco, tirato con la forza fuori per i capelli. Ciò è avvenuto senza alcuna resistenza da parte del compagno, hanno anche minacciato e insultato in modo volgare. Le conseguenze di queste torture sono state ci sono stati i seguenti danni, tipo sangue nelle urini, forti capogiri, mal di testa, gonfiori sul viso, contusione su entrambi gli occhi e contusione ed ecchimosi in tutto il resto del corpo. I genitori di Andreas riferiscono che il suo viso era irriconoscibile e la sua voce alterata dalle botte alla mascella. Negli ultimi 3 giorni ha bevuto solo acqua in bottiglie, mentre i suoi genitori non sono stati autorizzati a dargli alimenti confezionati e succhi di frutta. Tutto ciò ci fanno sapere i compagni dalla Grecia, che viene pubblicato non per evidenziare il vittimismo dei detenuti, ma solo al fine di rendere note le torture e la violenza legale dell'apparato statale. Nonostante tutto, Andreas Dimitris Bouzoukos è forte, ha mantenuto la sua dignità e il suo morale non è scosso. E poi finisce il comunicato con un forza detenuti. Allora, ora prima del prossimo capitolo ci ascoltiamo un altro brano, loro sono Genesis of Truth e il brano Sin City. Thank you. Carroll inarcò un sopracciglio e si carezzò il mento, quasi cercasse una barba che non c'era. Passato, dite, signor Pantera? Jesse James, suo fratello Frank, Cole Younger, Clem Miller e tutto il resto della banda non sono passato, ma presente. Basta leggere qualsiasi giornale per rendersene conto. L'ultima loro rapina risale a pochi mesi fa. Sapete chi sta dando loro la caccia? Pantera Nui, lo stesso che dà la caccia a voi, Alan Pinkerton. Vi fu un istante di silenzio. Jim Carroll adesso appariva inquieto, deglutì ripetutamente, poi si rivolse alla cognata. Molly, quest'uomo sa troppe cose, gliel'hai dette tu? La risposta della donna non sono timida. Fu chiaro che temeva Pantera, certo per esperienza, ma Carroll non la spaventava, anche quando il tono di questi era intimidatorio. In parte sì. Gli dovevo pur dire del lavoro da svolgere, non credo. Sa che deve scovare e eliminare una spia dell'agenzia Pinkerton. Sa anche perché una missione del genere ci serve uno stregone? Non lo sa, diglielo tu stesso se credi. Carroll si alzò e si aggiustò il grembiale. Più tardi. Vi sistemerò nel mio albergo per ora. Camere separate, si intende. Altrimenti attirereste l'attenzione di tutta Tamaka. Fissò Pantera. Voi avete capito di che cosa vi si chiede? La Pinkerton ci spia, anche se non sappiamo chi sono i suoi informatori. Vogliamo ripagarli con la stessa moneta. Dovrete entrare al loro servizio, e non è facile. Sapete che sono ricercato per l'omicidio di un ranger del Texas? No, non lo sapevo, ma non dovrebbe essere un problema. Il Texas è lontano e male che vada, cercheremo di sistemare la cosa. Gli occhi nerissimi di Pantera si rimpicciolirono. Parlate sempre al plurale. Chi è che mi paga? La WBA? No, quella è liquidata ormai. Per la prima volta Carroll sembrò imbarazzato, cercava le parole. Dietro lo sciopero c'è altra gente, diciamo che i soldi dell'anticipo vengono dalle casse degli ibernici. Non fanno vertenze dirette, ma difendono i diritti degli irlandesi. Solo degli irlandesi? Qui sono i più poveri e più sfruttati. Carroll si diresse alla porta. Seguitemi, vi faccio introdurre nelle vostre camere. Mentre gli ospiti passavano, l'ospite afferrò Molly per un braccio. Parlò piano. Tua sorella mi manca, sai, era una donna splendida. Gli occhi di lei si riempirono di lacrime. Mi hanno riferito che hai fatto il possibile per salvarla, non è vero? Il possibile sì. Purtroppo non c'è modo di sopravvivere al carbonchio, quando ho invaso tutto il corpo. Tu le somigli molto, mi fa piacere averti qui. Sali e resta quanto vuoi. Grazie. La sala centrale della taverna adesso era silenziosa, anche se non deserta. Ai tavoli, messi di sbieco, tra panche spossate e sgabelli rovesciati, sedevano alcuni clienti abituali. C'era chi parlottava e chi giocava a domino. Molti fumavano mozziconi di sigaro dall'odore sgradevole e pungente. Attorno ai garzoni stavano rimettendo a posto la mobilia. La scala in legno portava ad un balcone quadrangolare su cui si aprivano diversi usci fatti di travi grezze. Molly e Pantera vi furono scortati da un giovanotto dall'aria insolente che, a causa del labbro leporino, sembrava ridacchiare senza ragione. Questi aprì un battente su cui era dipinto a vernice il numero 4. «Ecco la stanza per la signora», annunciò ilare. «Se non sbaglio vi chiamate Molly, è buffissimo». La donna si fermò sulla soglia interdetta. «E cosa c'è di tanto buffo?» «Oh, nulla, nulla, signora mia». Non si capiva se il giovane fosse davvero esilarato oppure se il suo divertimento apparente andasse attribuito al labbro fisso. Qui Molly ha un nome che dal suono molto particolare, accomodatevi pure. Non troverete grandi comfort, ma le lenzuola sono pulite e c'è persino la specchiera, con tanto di catini e brocca d'acqua. Pantera porse a Molly il suo bagaglio. Tienilo tu, sono tutto cianfrusaglie tue, a parte in gang, e se avrò bisogno di qualcosa ti busserò. La stanza che gli era stata assegnata non era sporca, ma impolverata. Probabilmente era da almeno un anno che nessun viaggiatore si trovava alloggio e quando Pantera sbatté all'aria la coperta pesante gettata sulle lenzuola, si trovò avvolto in una piccola nube grigia. Disgustato, aprì la finestra. La vista era deprimente, non tanto per il suo irregolare e pietroso di Broad Street su cui dava la stanza, quanto per le squallide colline che si scorgevano oltre l'abitato. Qualche traccia di vegetazione c'era e nemmeno troppo stentata. Si limitava tuttavia ad una spruzzata di verde troppo scuro tra colline annerite, irte di costruzioni sgraziate. Avevano per lo più l'aspetto di giganteschi palazzi di legno, edificati senza tener conto né dell'estetica né della razionalità. Baracche e cubicoli si ammassavano in grappoli informi, come se fossero stati costruiti in momenti differenti e per diverse esigenze. Se ne dipartivano passerelle, scivoli, scalette, canalizzazioni, tratti di binario. Tutti quei tentacoli scendevano su Tamate e la avvolgevano da ogni lato, con un grumo più scuro e più grosso in corrispondenza della stazione ferroviaria. L'insieme era dominato da torri di metallo o di legno e da altissimi camini in mattoni. Si intuiva che quelle ciminiere, al momento inattive, d'ordinario vomitavano a getto continuo banchi di fumo, fino a nascondere il cielo quasi per intero. A loro si doveva molto probabilmente l'annerimento del suolo a perdita d'occhio. Non ancora completo, visto che tratti di bosco e di prato esistevano ancora. Tuttavia Pantera ebbe la sensazione che l'espansione della fuliggine fosse stata bloccata solo provvisoriamente e che presto avrebbe divorato ciò che in quel paesaggio rimaneva di naturale. Notò un movimento nella strada, fino allora quasi deserta. Prima di indagarne le origini aveva però alcuni compiti urgenti da portare a termine. Anzitutto chiuse a chiave la porta della stanza con due mandati. Poi si slacciò lo spolverino e posò sull'unico tavolino accanto al letto la Smith & Wesson, dopo aver controllato che fosse ben oliata. Quindi ordinò nel pisciatoio un cilindro di latta smaltato di bianco con un imbuto per coperchio, asportabile nel caso che i bisogni corporali del cliente fossero di natura solida. Per fortuna, se per mesi nessuno aveva cambiato le coperte, c'era chi aveva lavato l'urinale dopo la partenza dell'ultimo cliente. Nel West aveva visto alberghi molto peggiori. Tornò alla finestra e si sporse. Ciò che vide lo stupì e lo incuriosì. Gruppi di bambini uscivano dai porticati e dalle viuzze laterali molto silenziosi. Cercavano di disporsi in una fila alquanto irregolare al centro di Broad Street. Da quella distanza si somigliavano tutti, berretto in testa, pastrano troppo largo e troppo lungo, piedi nudi. Molte bambine vestivano come maschi oppure indossavano vestitini di tela. Pantera dovette aguzzare lo sguardo per capire dove fossero diretti i piccoli, poi comprese. Davanti a un portico adorno dell'insegna di un dentista brillavano le fiamme di un falò. Una grossa pentola emetteva vapori. Un uomo barbuto e alcune donne in nero riempivano con dei mestoli le gamelle che i bimbi porgevano. Bussarono alla porta. Pantera si distolse di malavoglia dallo spettacolo. «Molly, sei tu?» «Sì, sono io, ti porto la tua roba!» Il messicano girò due volte la chiave. «Posala lì!» disse indicando i piedi del letto. Poi tornò alla finestra. «È strano, questa gente deve proprio morire di fame!» «Cosa c'è di strano? Lo hanno detto, no?» «Non mi avevano dato una sensazione di miseria, però vedendo quei bambini...» «Bambini? Quali bambini?» Molly cercò di sopraggiungere la finestra, ma Pantera la fermò. Chiuse i vetri. Nulla lo infastidiva quanto le espressioni plateali di istinto materno. 5 mesi di sciopero, dicevano da basso, e sai perché? Non ho mai sentito parlare di scioperi tanto lunghi. Molly scosse il capo, prese a stendere con cura sulla sponda d'ottone dipinta di rosso la camicia, i pantaloni e le mutande che aveva portato a Pantera. «Immagino che siano pagati poco. Di solito gli scioperi partono così». Quelli dell'assemblea facevano destinazione tra manovali e minatori. «Credevo che tutti i lavoratori della miniera svolgessero la stessa attività. Ne sai qualcosa?» «No. So solo che i padroni sono quasi sempre inglesi. Era così in Irlanda ed è così, tale e quale». La risposta era insoddisfacente, ma Pantera non si è aspettato altro da Molly. Una spiegazione articolata certamente non sarebbe venuta. Guardò i capi di abbigliamento che la donna aveva finito di sistemare sulla sponda del letto. «Vedo i miei vestiti, ma i miei strumenti, sai cosa intendo, in paca e gli ingredienti del gang. Quelli li ho lasciati nella valigia, non li ho nemmeno toccati». Molly abbassò la voce. «Sai che mi fanno paura». Pantera rimase interdetto, poi sogghignò. «Beh, hai fatto bene, ma voglio un sigaro e dell'alcol. Non però in vista di un bifongo, solo per rilassarmi». «Li trovi da basso?» «Lo so. Intanto tu puliscimi la camera, come adesso, fa schifo». Prima di scendere al piano inferiore, Pantera riprese la Smith & Wesson e la infilò nella cintola. Si accertò di avere le tasche dello spolverino piene di tamburi di riserva, ben carichi. Evitò con cura di guardare dalla finestra la coda dei bambini. Le scene patetiche gli facevano orrore. Uscì, lasciando la porta socchiusa. Nella taverna i garzoni avevano fatto una discreta pulizia e ricollocato tavoli e panche in ordine simmetrico. Jim Carroll al banco, intento a spillare birra per un giovanotto, con cui conversava sottovoce. Alcuni avventori si attardavano accanto ad una grossa stufa di ghisa, aspettando che i sedili fossero ripuliti dal fango delle scarpe di chi vi era montato sopra. Pantera posò i gomiti sotto il piano luce del bancone di zinco. Attendeva che Carol interrompesse il proprio colloquio e gli servisse da bere. Per parecchi minuti aspettò invano. Infine, incrociò lo sguardo del taverniere e gli fece cenno. La reazione fu del tutto imprevista. Carol lo guardò di sbieco e poi sbottò. «Vuoi da bere, messicano? Per te non ne ho. È già molto che abbia accettato di ospitarti. L'ho fatto per mia cognata, povera e ingenua. Ma una lurida spia non servo né whisky né birra». La testa di Pantera scattò in direzione della Smith & Wesson. Un istante dopo però intuì la verità. La rappresentazione era iniziata. Ammirò la scaltrezza dell'irlandese. «Non sono una spia», si limitò a obiettare con voce neutra. «Puoi dire ciò che vuoi, mezzo negro. Puoi dormire qui, ma da me non avrai né un goccio di alcol né nient'altro». Gli uomini vicini alla stufa si fecero largo tra le panche. Il più grosso di loro vestiva una giacca pesante che doveva avere imbottito di stracci. Boccoli biondi tendenti al fulvo gli cadevano su per un colletto di lana di pecora cucito alla meglio. «Una spia di Gowen, eh? Jim, perché non ce l'hai detto prima?» ridacchiò. «Non di Gowen, ma di Pinkerton, il che è lo stesso. Ancora meglio. Vediamo di lasciare un marchio su quella faccia fuligginosa». La mano del colosso estrasse dal giaccone un lungo coltello a serramanico che aprì con uno scatto del polso. Pantera valutò la situazione. Nella taverna il pubblico era troppo scarso, gli conveniva spostare la rissa in strada. Agile, saltò su una panca e poi su un tavolo, oltrepassando l'aggressore. Un amico di questi cercò di afferrarlo, ma Pantera si sottrasse alla stretta. Corse alla porta, ne spinse le ante e sfibrò in Lyke Street, sempre correndo raggiunse Broad Street, la via più frequentata. Scompigliò la fila di bambini che arrivava fin lì. Pochi secondi dopo apparve sul crocicchio l'uomo col coltello. Ansimava, soffocato dal furore. «Fermati, bastardo, maledetto spione, ti taglio la gola!» Pantera si arrestò e lo fronteggiò. Non aveva la minima intenzione di usare la rivoltella. Pensava di risolvere la faccenda a pugni. Un sasso, però, gli sfiorò l'orecchio. Quando si girò nella direzione da cui il proiettile proveniva, rischiò di prenderne un secondo in pieno viso. I bambini stavano raccogliendo pietre e manciate di sabbia che le stavano tirando. Vide anche alcune donne vestite di nero curve a cercare ciottoli. L'istinto gli suggeriva di estrarre la Smith & Wesson, ma la ragione glielo vietava. Rimase per qualche istante a fare da bersaglio, poi vide il prete cattolico sulla soglia della chiesa fare larghi gesti nella sua direzione. Lo invitava ad avvicinarsi. Mezzo accecato dalla sabbia, obbedì meccanicamente. Mentre saliva i gradini della chiesetta, scorse l'energumeno che agitava il coltello da debita distanza. I sassi continuavano a cadere, sempre più grossi e fitti come grandine. Le braccia muscolose del sacerdote lo trascinavano dentro. Prima di abbandonarsi a quella stretta, Pantera colse lo spettacolo più sconcertante di tutti. Dal lato dell'albergo che dava su Broad Street, Molly si sporgeva da una finestra, lanciava contumeli al suo indirizzo e gettava di sotto brache e mutande che gli erano appartenute. I ragazzini se le contendevano. E loro erano KMFDM, il brano Me and My Gun. Allora, ora intervalliamo un po' la lettura dando un'altra notizia di controinformazione. Questa volta arriva dall'Egitto, per chi ha già potuto spucciare sui vari siti e blog anarchici. Si è potuto notare che in Egitto si è creato questo nuovo gruppo di compagni che comunque stanno facendo un bel po' di danni al Cairo. Allora, diamo la notizia, perché praticamente 18 compagni sono stati indagati e accusati di appartenere a un gruppo di manifestanti noto come Black Bloc. Sono stati arrestati giovedì 31 gennaio e almeno uno è accusato di legami con Israele, ha detto l'ufficio del procuratore generale. Il Black Bloc è un gruppo finora sconosciuto che ha cominciato a comparire in occasione di una manifestazione nell'anniversario della rivoluzione del 25 gennaio la settimana scorsa. Un sospetto è stato arrestato in un edificio in piazza Tahrir, secondo una dichiarazione rilasciata dall'ufficio del procuratore, come riportato dall'agenzia di stampa di Stato MENA. Questo individuo era in possesso di mappe e documenti importanti delle istituzioni del Cairo, incluse le banche e le compagnie petrolifere. L'accusa ha sostenuto che la mappa in questione era stata fatta in Israele, anche se le autorità non hanno chiarito su come facevano a sapere che questa era di origine israeliana. Il portavoce del Ministero degli Interni israeliano AFP, Yigal Palmor, ha risposto dicendo che non sapeva se il membro Black Bloc era intenzionato a realizzare un piano di sabotaggio, ma la pretesa di coinvolgere Israele era una sciocchezza assoluta. Un altro individuo, sempre secondo l'accusa, è stato arrestato a Mahalla mentre presumibilmente si accordava con un proprietario di una fabbrica di abbigliamento per la fabbricazione di maschere nere ed abiti che poi sarebbero stati indossati dai manifestanti del Black Bloc. Il sospettato di Mahalla potrebbe essere colui che tentava di reclutare studenti universitari e giovani ad unirsi al gruppo, ha affermato Yassin, secondo il quale un certo numero di studenti aveva testimoniato che l'indagato li aveva invitati a partecipare al Black Bloc. Gli ordini sono stati dati dagli operatori di polizia e all'esercito di arrestare immediatamente chiunque avesse una maschera del Black Bloc. Decine di proteste in solidarietà con i Black Bloc e 4 presunti membri sono stati arrestati. Una decina di persone ha protestato presso la High Court nel centro di El Cairo mercoledì 30 gennaio contro la decisione del procuratore generale di arrestare i membri del gruppo Black Bloc con l'accusa di terrorismo. Il procuratore generale Talat Abdallah ha ordinato martedì l'arresto di tutti i membri del gruppo, così come chi si unisce o mette la loro uniforme, sostenendo che il gruppo si esibisce in azioni terroristiche. Le forze di sicurezza hanno arrestato 4 persone mascherate con l'accusa di essere membri del Black Bloc mentre erano in cammino con altri manifestanti verso l'ufficio del procuratore generale per protestare. 3 degli indagati sono detenuti all'interno del tribunale, mentre il quarto è stato trasferito con un veicolo della polizia in un luogo sconosciuto. Le autorità intanto hanno imposto misure di massima sicurezza attorno alla Ekurt del Cairo. La sicurezza ha schierato 15 veicoli corazzati, così come una centinaia di uomini delle truppe delle forze di sicurezza per arrestare i membri del gruppo. Ha inoltre evacuato tutti i cittadini e i lavoratori del palazzo temendo disordini. Beh, insomma, questi erano un po' gli aggiornamenti che ci arrivano dall'Egitto. Nel caso ce ne saranno altri, ve li daremo o in diretta oppure attraverso il blog di Radiazione, che lo ricordo è radiazione.noblogs.org. Allora, ora ci andiamo ad ascoltare un brano prima della lettura del nuovo capitolo di Andracite. Loro sono Cad Industry e il brano Carry Out the Order. Thank you. 3. Kate Boyle. Nella navata semplice e disadorna della chiesa, Pantera guardò il sacerdote che lo aveva tratto in salvo. Non gli piacque nemmeno un poco, ma non perché il suo viso esprimesse qualcosa di sgradevole. In realtà non esprimeva nulla, se non una solidarietà artificiosa. Nella religione che Pantera praticava, la figura più simile a un prete, il Palelo Raiado, quale era lui stesso, come minimo emanava un carisma. Nei casi peggiori aveva solo un volto tormentato e rugoso, indice della fatica del tenersi in contatto con l'aldilà e di cercare di dominarne le forze. Di conseguenza, il viso glabro del sacerdote che aveva di fronte, la sua bocca da bambino, la pelle liscia e i capelli radi ma troppo neri, gli ispiravano diffidenza. Quello non era un uomo che soffrisse il giusto. Il prete parlò in tono premuroso, senza che nella sua voce si udisse un grammo di sincerità. Nemmeno mentiva però, solo obbediva a un qualche stereotipo. «Benvenuto, fratello, nella casa del Signore. Sono padre Walsh. Ho ritenuto mio dovere salvarvi da quei selvaggi». «Ve ne sono grato, padre», rispose Pantera sottraendo il gomito alla stretta dell'altro. «Ma perché li chiamate selvaggi?» La boccuccia del prete disegnò un cerchio quasi perfetto. «Bello, avete visto anche voi, no? Dal più piccolo al più anziano si sanno esprimere solo con la violenza. È un antico male irlandese». Pantera gli lanciò un'occhiata indagatrice. «Anche il vostro nome è irlandese, se non mi inganno». «È vero, ma mica tutti gli irlandesi sono uguali. Io sono nato qui e dunque sono un americano irlandese. C'è una bella differenza». «E quale sarebbe?» «Oh, beh, le differenze sono in realtà più d'una in confronto a chi è appena immigrato dal Donegal, anzitutto l'accettazione di un sistema democratico, poi la consapevolezza che operai e padroni sia una patria comune e da ultimo», e qui padre Walsh esitò e finì per scuotere le spalle, «da ultimo niente, non capireste, penso che vi interessi di più una minestra calda?» «E perché no?» Pantera si attendeva di venir condotto in una canonica, magari con una perpetua affaccendata ai fornelli. Invece il prete abitava da solo in un piccolo alloggio dalle pareti in legno adiacente alla chiesa. Vi si accedeva da una porticina sulla destra della navata, presso l'unico confessionale. Branda, cucina e tavolo erano ospitati nella stessa stanza. La finestra era troppo piccola, tanto che il lume a petrolio era acceso a quell'ora del pomeriggio. Sulla cappa del caminetto spento pendeva un crocifisso. Uno scaffale sospeso sul letto reggeva solo una Bibbia, un breviario e alcuni quotidiani ingialliti. Walsh raggiunse il parallelepipedo della stufa in mattoni, sollevò il coperchio di un tegame. «Ho dei fagioli», annunciò, «col pane sono buoni anche freddi». «Datemeli freddi», rispose Pantera mentre si lasciava cadere su una sedia dal fondo in vimini a un angolo della stanza. «Sapete», mormorò il prete un po' imbarazzato nello staccare dal muro un mestolo, «da quando la follia dello sciopero è cominciata, le offerte per la parrocchia si sono ridotte a zero. Questo la dice lunga sul cristianesimo degli irlandesi di Tamaka». «Strano, gli irlandesi sono noti per il fervore del loro cattolicesimo». «Tutta apparenza, ma non fatemi parlare di questo, mi metterebbe di malumore». Walsh trasse da una madia un paio di scodelle sbrecciate agli orli, le colmò con il mestolo di una broda scura già rappresa, poi agitò nei piatti un cucchiaio per ridare fluidità al liquido. «Ecco qua, non è un piatto saporito, ma è nutriente». «Oh, aspettate, vi cerco il pane». «Non importa», rispose Pantera. Avvicinò a sé la scodella e accettò dalle mani dell'altro lo stesso cucchiaio con cui era stato rimestato l'intruglio. «Immagino che gli scioperanti se la passino anche peggio di voi». «Sì, ma quelli se la sono voluta». «E in che senso?» «Io vengo da fuori e non so niente di quanto è successo qui. Però so che di solito la gente non sciopera senza un motivo, specie se lo fa per diversi mesi». Padre Walsh si era seduto a sua volta e aveva cominciato a mangiare. Sorbiva dal cucchiaio con un risucchio mentre la broda gli colava abbondante sul mento. Pantera notò che gli mancavano un bel po' di denti e anche se i pochi rimasti sembravano sani. «A volte il diavolo spinge a cattivi consigli», spiegò il prete, «specie se si incarna in organizzazioni che hanno il fine del disordine. A Tamaco, e in genere nelle contee di Schuylkill e di Carbon, hanno un nome preciso, Working's Man Benevolent Association, è antico ordine degli ibernici», completò Pantera. Il viso di Walsh si illuminò. «Bravo! Lo avete letto sul cartello che ho esposto qui fuori, non è vero? Un'ora fa vi ho visto che lo guardavate, quando siete passato con quella puttana. In quel momento ero un po' irritato con voi, non avevo ancora capito chi foste». Anche Pantera stava mangiando, ma più silenziosamente. Finì di inghiottire una cucchiaiata di broda fredda cercando di dimenticarne il sapore, poi alzò lo sguardo. E chi sarei secondo voi? Un uomo dell'agenzia Pilkington, no? Il prete aspettò una conferma che non venne, allora se la diede da solo. Se così non fosse, i Monelli non vi avrebbero tirato sassi. Tutti sanno, e anche loro, che Pinkerton sta mandando altri uomini in città. Nessun altro straniero metterebbe piede qui. Non c'è lavoro, non ci sono attrattive, non c'è nulla di nulla. Chi arriva o è un agente o è un sovversivo. Ma i sovversivi sono pallidi e mingherlini e non si portano puttane al seguito. Il prete indugiò col cucchiaio in aria, soddisfatto delle proprie deduzioni. Pantera lo lasciò beare per un poco mentre studiava una risposta coerente. Ingurgitò altra broda e finì col dire a bassa voce: chi fa il mio mestiere è abituato al silenzio. Ora devo contattare gli infiltrati, quelli che mi hanno spedito qua, non mi hanno detto come fare. Oh, è semplice. Basta che andate a trovare Michael Bird con suo fratello Samuel, gestisce un piccolo albergo dietro la prigione. Walsh rise. Non mi arcate il sopracciglio, non si tratta di infiltrati. Mike e Sam sono tra i capi del comitato dei vigilantes di Tamako, persone oneste che agiscono alla luce del sole in accordo con la Coal and Iron Policy. Furono tra i primi nel 73 a pensare di assoldare l'agenzia Pinkerton. Il signor Gowen accettò il loro consiglio. Devono essere molto influenti. Lo sono. Però di questi tempi la loro vita a Tamako si è fatta durissima, li accoglieranno a braccia aperte, vedrete. Pantera approfittò dell'opportunità per interrompere quel passo disgustoso, lasciò cadere il cucchiaio nella scodella e si alzò in piedi. Vado subito, annunciò. Perché dite che i Bird fanno una vita durissima? La forza, mi pare, è dalla loro parte. Anche il prete si sollevò dalla sedia di malavoglia. Si vedeva bene che avrebbe preferito continuare la conversazione. Per lui mangiare in compagnia non doveva essere frequente. A Skykill Country avere una propria forza o la ragione non è sufficiente. Qui bisogna stare attenti anche quando si rientra a casa propria. Certo, lo sapete, 2 assassinati l'anno scorso, fanno in tutto 10 dalla fine della guerra civile. Lo so, mentì Pantera e si avviò alla porta. E i sabotaggi e gli incendi non si contano. Nemmeno il fatto che il cardinale West abbia scomunicato gli ibernici è servito a qualcosa. Poi osano dirsi cattolici. La speranza per la gente onesta della contea è affidata a gente come voi, capace di applicare la legge biblica dell'occhio per l'occhio. Faremo del nostro meglio, disse genericamente Pantera mentre usciva. Broad Street era adesso deserta. Il messicano scendeva gli ultimi gradini della chiesa quando dall'alto lo raggiunse la voce interrogativa di Walsh. Ah, a proposito, come vi chiamate? Finse di non aver udito e si incamminò lungo la via. Pantera non aveva intenzione di cercare subito il carcere e l'albergo dei fratelli Bird. Doveva essere il primo pomeriggio, nessun campanile scandiva il tempo e, per quanto il sole restasse fiacco, c'era ancora molta luce. Preferì dunque cercare di conoscere meglio la città. Su Broad Street, accanto ad edifici precari e di una prematura fatiscenza come se ne trovano nel West, sorgevano costruzioni più ambiziose. Per esempio, all'angolo con North Hunter Street, un leggiadro palazzo a 2 piani dalle terrazze eleganti, e più avanti un teatro che doveva aver conosciuto tempi più prosperi, sormontato dall'insegna che ne recava il nome, Victoria. E ancora una banca, diversi alberghi, l'ufficio dello sceriffo. Tutto però confluiva come risucchiato da un gorgo di sabbia e di pietre verso la stazione ferroviaria. Era la stazione, enorme rispetto alle proporzioni dell'abitato, che, oltre ai vuoti castelli di legno e alle cimiere delle colline, dava a quest'ultimo un'identità. I binari si intrecciavano, carrelli e locomotive parevano in attesa di potersi rimettere in moto dopo una lunga sosta non voluta. Un fiume impetuoso, proprio al lato, schiumava contro le rocce della sponda in vortici scuri, anche se meno scuri. C'era da presumere di quanto le miniere attorno ne erano state in piena attività. Tra il fiume e la ferrovia, attorno ai capannoni bassi di alcuni magazzini, si scorgevano le uniche tracce di vita visibili a quell'ora e in quel giorno a Tamaka. Pochi militi della Coal and Iron Police presidiavano gli accessi, il Winchester imbracciato. Pantera ne dedusse che le lunghe baracche fossero spacci e che se ne temesse il saccheggio. Ciò era ulteriore indizio di una miseria di cui lui, fino a quel momento, aveva colto solo tracce indirette. Uno degli uomini della Coal and Iron lo notò e marciò nella sua direzione, certo perché non aveva niente di meglio da fare. «Ehi, negro, cosa fai da queste parti? Non sai che è proibito gironzolare qui intorno?» Pantera attese che l'uomo gli si avvicinasse e intanto lo guardò bene. Viso rubizzo, pochi capelli, baffi biondi, spalle larghe ma ad ometro propinente. Si fingeva furibondo, però si vedeva bene che mentiva. Voleva solo divertirsi e divertire i compagni. Quando l'agente fu a tiro, Pantera gli disse con voce pacata: «No, non sapevo che fosse proibito stare qua, adesso lo so. E dunque?» Il timbro del messicano si indurì. «Dunque rimango qui intorno quanto mi pare e piace.» L'altro si arrestò di colpo, come se fosse stato bloccato da una percossa inattesa. Esterrefatto guardò i compagni, ma non era sicuro che quelli avessero colto il dialogo data la distanza. Inarcò le sopracciglia, quindi alzò il Winchester e fece per armarlo. La sequenza di azioni fu troppo lunga. Prima che il colpo in canna fosse arrivato, la guardia si trovò la Smith & Wesson del messicano a un palmo dal viso. Il cane della rivoltella si era già alzato. «Lascia cadere il fucile davanti ai tuoi piedi», disse Pantera lentamente. La guardia cercò di far fuggire qualcosa, ma dovette obbedire. I suoi compagni stavano accorrendo con le armi in pugno. Pantera non li guardò nemmeno. Parlò loro senza distogliere gli occhi dall'uomo che aveva di fronte. «Tenete le canne basse. Se le sollevate, al vostro amico scoppia la testa.» We'll be right back. tra i soccorritori ci fu uno sbandamento. Uno di loro domandò in tono duro: «Ma tu chi sei? Un Molly?» Pantera nascose bene lo stupore che suscitava in lui l'udire quel nome. D'improvviso una risposta: «Lavoro per l'agenzia Pinkerton. Domandate a fratelli Bird se volete una conferma.» «Ho capito chi è», esclamò uno degli agenti. «L'ho visto in strada stamattina. Si è rifugiato nella chiesa cattolica per sfuggire ad un linciaggio. È davvero un Pinkerton.» A quelle parole tutti i visi si rilassarono, incluso quello dell'uomo che Pantera stava minacciando. Questi riuscì persino ad abbozzare un sorriso. «Potevi dirlo prima, amico. Né il capitano Linden né il capitano Williams ci avevano detto che tra la gente dell'agenzia c'era un messicano. Poteva finire molto male.» Fece il gesto di raccogliere il fucile. «Bada che non è affatto finita.» L'uscita di Pantera, il quale non aveva abbassato il revolver, riportò il gelo. La gente rimase nella posizione curva in cui si trovava. «Ma cosa vuoi dire?» «Io ho un principio nella vita. Nessuno che mi minacci deve uscirne indenne. Spingi in avanti il padiglione dell'orecchio. Perderai l'orecchio ma salverai la vita.» L'altro ebbe l'aria di non capire. Anche i suoi compagni erano a bocca aperta. Dopo un sospiro Pantera disse: «Se non spingi l'orecchio rischi che ti porti via mezzo cranio. A che scegliere?» «Ma quello è pazzo», non lo so. «Sbrigati, non ho tanto tempo», sbuffò Pantera. «Conterò fino a tre. 1, 2. Forse per un moto istintivo l'uomo portò due dita dietro l'orecchio e, disperato, lo spinse in avanti. Un attimo dopo, un colpo della Smith & Wesson gli strappava buona parte del padiglione. L'uomo cacciò un urlo. Con indice e medio rimasti privi di falange, toccava un frammento di cartilagine che sanguinava abbondantemente. Quasi svenne. Pantera fu lesto a puntare la rivoltella ancora fumante sugli altri agenti. «Adesso avete capito come lavorano gli uomini di Pinkerton», disse quasi Lare. «Quelli che avete conosciuto finora erano dei mezzi finocchi. Se volete notizie su di me, chiedete ai fratelli Bird. Loro sanno chi sono.» Con gesti volutamente lenti, Pantera ricollocò il revolver che ancora scottava nella cintura. Come aveva previsto, nessuno degli agenti tentò una reazione. Sembravano annichiliti. Accucciato a terra, il ferito gemeva piano, cercando di trattenere con la mano l'uscita copiosa del sangue. Il messicano girò le spalle al gruppo e se ne andò, diretto in città. Ora si trattava di trovare Bird prima che la Cole and Iron Police tentasse l'inevitabile verifica. Fu fortunato. Uscì da Broad Street e imboccò Berwick Street, molto più stretta, mentre il sole calava a vista d'occhio. La via, abbastanza decorosa all'inizio, degradava presto in file di bicocche della parete e dai tetti di legno. Lì c'era gente. Donne che raccoglievano i panni stesi da asciugare, qualche bambino che giocava a pallone con un involto di stracci, vecchi che fumavano la pipa sulla soglia di casa. Ma soprattutto c'erano topi, grassi e sfrontati. Si contendevano i rifiuti disseminati un po' ovunque. Finalmente Pantera aveva trovato le scene di miseria che cercava. Più che le case, erano i topi a rappresentarli. Una ragazzina dai grandi occhi verdi sbucò da un cortile e gli si parò davanti. Gli sorrise con denti gialli ma intatti, in un'epoca in cui la carie infieriva come un'epidemia. «Straniero, vuoi stare un po' con me? Non chiedo molto e sono brava.» Pantera la guardò. Dimostrava 16 anni, forse meno. Indossava una giacca da uomo larga di colore marrone che le nascondeva il seno, se lo aveva, e una gonna di lino giallo che le toccava le caviglie. I piedi erano nudi. Il suo viso era un po' grossolano, coperto di lentiggini come quello di moglie. Tuttavia risultava grazioso o quantomeno fresco. Pantera, abituato a esaminare in dettaglio tutti coloro in cui si imbatteva, notò le dita delle mani straordinariamente gonfie e solcate da cicatrici non recenti. «Sei molto giovane», osservò. «I tuoi genitori non sarebbero d'accordo con quello che stai proponendo.» «Oh, loro», rispose la ragazzina alzando le spalle. «Certo che non sarebbero d'accordo, ma io non glielo vado mica a dire, nemmeno il nonno. Facciamo credere che i soldi che porto in casa siano suoi.» «Del nonno. E lui acconsente.» «Non vorrebbe, ma fa tutto quello che gli dico. Non possiamo certo morire di fame.» La ragazza indicò uno steccato. «È quasi buio, là dietro non ci vedrà nessuno.» Pantera era un po' sconcertato dalla naturalezza e dalla spontaneità con cui la giovane parlava. Quasi gli dispiacque deluderla. «Non ho tempo. Devo andare nel salone di Michael Bird. Sai dov'è?» «Ma stai scherzando?» La ragazzina sembrò preoccupata. Preoccupata per il messicano. quello è una spia, è uno degli uomini di Daniel Shep, un vigilante. E se fosse anche una spia? Pantera provò disagio, mentre due occhi troppo verdi e troppo grandi lo scrutavano. Poi la giovane rispose: no, non puoi essere una spia. Senti, facciamo così, io ti accompagno all'albergo del Bird, che non è lontano, sta dietro la prigione. Tu, in cambio, gli paghi qualcosa da mangiare. Poi decidi se ti fa piacere venire nel prato con me. Sì, facciamo così, consentì Pantera. La ragazzina sembrò felice. Allora andiamo, ho una fame. Quell'entusiasmo coinvolse a suo malgrado Pantera, che si lasciò trascinare per mano. In effetti l'albergo non era distante, si trovava a ridosso di Broad Street, dietro un basso edificio squadrato dalle finestre già illuminate dall'interno. Se fosse una prigione lo si capiva dalle sbarre dei cani superiori. Solo quando furono in vista dell'hotel, Pantera chiese: come ti chiami, piccola? La ragazzina si imbranciò. Non sono tanto piccola, mia sorella ha un anno meno di me ed è già sposata. Un istante dopo il suo viso si distese. Mi chiamo Kate Boyle, e tu? Pantera non rispose. E hai sempre fatto il lavoro che fai adesso? No, prima dello sciopero lavoravo in miniera, con gli altri ragazzi, al Breaker, il capanno dove si separa l'antracite dai sassi. Non hai visto le mie mani? Kate mostrò con una certa fierezza le dita tutte gonfie e screpolate. Pantera le osservò senza reazioni, pensava ad altro. Chi è stato il tuo primo cliente? Il fratello di Mike Bird, Sam. Tra poco lo conoscerai, l'albergo è questo. L'edificio che avevano di fronte, quasi indistinto nelle ombre rossastre del tramonto, recava sulla facciata la scritta a vernice Washington House, Beds and First Choices Whiskies. A due soli piani aveva un'apparenza molto più modesta della Columbia House di Jim Carroll. Qualcuno si era premurato di coprire il disegno di un trifoglio, ma il verde emergeva da sotto lo strato di calce. Appena Pantera e Kate furono entrati nella taverna, dal piano terra vennero investiti dal fumo delle pipe e dei sigari, dal lamento fievole e incalzante del violino sulla spalla di un cieco e dal brusio di una calca di avventori. Rispetto al locale di Carroll, lì gli arredi in legno erano più eleganti, e così la clientela. Quasi tutti uomini, ovviamente, ma c'era anche qualche donna seduta ai tavolini di lato, separati tra loro da tramezzi un po' più alti dello schienale delle panche. Erano tutte in compagnia del marito, o forse dell'amante, e portavano cappellino e colletto alto di pizzo. Nessuno di loro sfoggiava abiti davvero fini, tuttavia una parvenza di decoro era palese. All'ingresso di Pantera e della ragazza suscitò qualche commento, ma più stupito che scandalizzato. La reazione vera fu affidata agli atti piuttosto che alle parole. Parecchi clienti che erano in piedi girarono la schiena ai nuovi venuti, altri si ritrassero per farli passare. Le sopracciglia erano tutte inarcate. Così fu facile raggiungere il grande bancone di zinco. «È quello Michael Bird?» chiese Pantera. «Sì, è quello», rispose Kate. Era facile capire a chi alludessero. Dietro al banco, davanti a scaffali carichi di bottiglie, a un quadro tanto stinto che non se ne percepiva il soggetto, stava un uomo solo. Era massiccio, quasi calvo, barbuto. La fronte era alta, gli occhi grigi e intelligenti. Aveva baffi a manubrio, impomatati con scrupolo, e dal mento gli pendeva una barba di taglio esattamente triangolare. Appena vide Kate, le sorrise con calore. «Oh, chi si vede? La nostra puttanella preferita. Peccato che Sam non ci sia e a presidiare i pozzi». «Ciao Mike», rispose la ragazza. L'attenzione dell'albergatore si spostò su Pantera. «Kate, vedo che hai un nuovo amico, un po' scuro di pelle, direi». «Per voi è un problema?» chiese il messicano, gelido. «No, affatto. Sono gli irlandesi che temono sempre la concorrenza sul lavoro. Se Dio vuole, io sono gallese. Accomodatevi pure, cosa vi servo?» Bird indicò le bottiglie alle proprie spalle. «Stasera offro io». «Perché?» chiese Pantera. «Perché prima è stato qui padre Walsh, mi ha parlato di voi e mi ha detto per chi lavorate. Siete a casa vostra». Bird allargò il suo sorriso. «Io non vorrei solo bere, vorrei mangiare», cinguettò Kate, profittando della disponibilità. «E allora accomodatevi a noi tavolini, stasera in cucina non abbiamo molto, ma salsicce e fagioli li si rimedia». Bird fece l'occhialino a Pantera. «Stanotte vi conviene essere in forma. La piccola è una che sfianca. Me l'ha detto Sam e parecchi clienti l'hanno confermato. Vi ringrazio, mormorò Pantera. Spinse Kate verso il tavolino. Ce n'erano due liberi, scelse più lontano. Mentre lo raggiungevano, le occhiate degli astanti si fecero più indiscrete. Adesso ce n'erano alcune di veramente scandalizzate. «Sai che è la prima volta che mi permettono di sedere qua?» mormorò Kate mentre si lasciava cadere su un cuscino di velluto rosa sbiancato dal logorio degli anni. «Dio che bello stare tra i ricchi!» «Io non sono ricco», disse Pantera. «Cosa importa? È tutto gratis, non l'hai sentito? Vorrei solo avere qui mio nonno per mettergli in bocca qualcosa in bocca. È tutto sventato, sono io che devo imboccarlo». Faceva un caldo persino eccessivo. La ragazzina si tolse la giacca e mostrò una camiciola bianca, anch'essa da uomo. Pantera notò che Kate il segno lo aveva, anche se ancora c'era. Da parte sua tolse solo il cappello, liberando la capigliatura folta e nera. «Conosci qualcuno di quelli che stanno qui?» «Pochi. Il signor Bannan, per esempio». Kate indicò un personaggio dei capelli grigi dall'aria distinta. Dirigeva il Miner's Journal prima di Robert Ramsey. Adesso fa il politico. Poi c'è Daniel Shep, il capo dei vigilantes, sta guardando proprio te. Pantera evitò di volgersi in quella direzione. Prese invece di tasca un sigaro giallo e sottile e lo accese con uno zolfanello tratto dalla scatola posata al centro del tavolo. Mentre tirava la prima boccata domandò: «Sono toccato tuoi clienti?» «Quelli che ho nominato? No, non si sporcherebbero con una come me. Se hanno bisogno di una ragazza vanno a Scenando A. Là c'è un bordello. Della gente che frequenta questo posto sono stata solo con Sam, suo fratello, e con un po' di guardie e minatori. Sam è stato il primo». «È lui che ti ha sverginata?» Kate scoppiò in una risata cristallina. «Oh no, quello è stato il nonno. Aveva appena compiuto 11 anni e lui aveva bevuto parecchio». Furono interrotti dall'arrivo delle salsicce e dei fagioli, portati da Mike Bird in persona. Dietro di lui veniva Daniel Shep. Si era sostituito al cameriere e reggeva tre boccali colmi di birra ambrata. Il viso largo di Shep, ornato da una barba a collare, mostrava cordialità e amicizia. «Permettete che mi sieda al vostro tavolo? Di questi tempi a Tamaka è raro che capitino stranieri. E poi, Kate, lascia che te lo dica. Stasera sei assolutamente affascinante». «Grazie», la ragazzina sorrise. Pantera indicò un oro della panca con gesto sobrio. «Sedete pure, so già chi siete, non occorrono presentazioni». La cordialità di Shep sembrò accentuarsi. «No, non occorrono. So che questo pomeriggio avete strappato un orecchio a Reg Murphy della Coal and Iron Police. Ho telegrafato a Franklin della Pinkerton. Poco fa ho avuto una risposta. So tutto di voi». Pantera si irrigidì un poco. «Forse non è il caso di parlare di queste cose davanti ad una signorina». «E perché no?» rispose Shep. Prese posto sulla panca e immerse le labbra e il naso nella schiuma della birra. questi erano Flashfield con il brano Reflect the Enemy. Allora, con oggi abbiamo finito la lettura, non abbiamo finito il libro, abbiamo finito per oggi la lettura con il, siamo arrivati al quarto capitolo del libro Antracite di Valerio Evangelisti. Allora, si continua con la controinformazione, un paio di notizie prima di salutarci. Il primo ci arriva dalla Grecia, che è un aggiornamento sulle CCF per quanto riguarda il processo che è in corso in questo periodo. Allora, praticamente dai compagni di Act for Freedom Now si viene a sapere che durante queste tre udienze, le ultime udienze, praticamente i compagni delle CCF non sono comparsi in aula in seguito a un minimo di solidarietà al loro compagno Panagiotis Agirò, che viene giudicato in momento custodito nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Tiassio dopo un grave infortunio avvenuto in prigione, di cui già ne avevamo parlato già in precedenza, avevamo dato anche gli aggiornamenti sullo stato di salute del compagno. Il giudice ha dovuto rinviare all'udienza numero 20, praticamente è proseguita con le obiezioni degli avvocati. I compagni della cospirazione erano assenti dall'aula, come hanno preannunciato, solo due di loro a turno sono apparsi nel caso fosse stato necessario intervenire. Praticamente un intervento è arrivato quasi subito, al momento che un avvocato della difesa di un accusato che non ha nessuna relazione con i compagni della cospirazione ha iniziato a parlare dell'innocenza di alcuni ragazzi e ad elogiare l'istituzione della giustizia. I due compagni delle CCF che sono intervenuti hanno chiarito che coloro che hanno assunto la responsabilità per le CCF rimangono consapevolmente colpevoli contro la società innocente del silenzio. Essi hanno inoltre sottolineato che non riconoscono alcun tribunale che giudica loro e hanno aggiunto che il resto degli imputati, oltre ai compagni della cospirazione e Teofilos Mavropoulos, non hanno alcun collegamento a qualsiasi azione dell'organizzazione e per questo il giudice dovrebbe far cadere tutte le accuse. Per quanto riguarda l'avvocato che ha fatto la dichiarazione, il giudice gli ha chiesto di non fare più riferimento all'organizzazione e il giudice poi si è rivolto ai compagni dicendo vi consiglio da amico, tra virgolette, che attraverso la procedura ci potrebbe essere anche qualche prova attenuante per loro, in modo che non ci sia un giudizio di colpevolezza anticipato. Immediatamente però i compagni hanno risposto che sono i nemici della giustizia e non sono interessati a qualsiasi procedura, ribadendo poi che restiamo anarchici d'azione, nessun giudice ci può provare, per noi è un onore essere in colpa contro le vostre leggi, solo coloro che sono codardi e quelli che hanno paura di vivere sono innocenti. La sessione 21 e 22, queste sessioni sono continuate con le obiezioni da parte dei sostenitori e senza altro interesse. E questo era l'aggiornamento per quanto riguarda il processo delle CCF. Ora ci ascoltiamo un altro brano e poi dopo ci andiamo a leggere una lunga rivendicazione di un attacco che c'è stato in Svizzera. Il prossimo brano sono Battle Suffers e il brano è You Don't Know Me. You don't know me, you just know my name. You want to see me rolling. E questi erano Battlestar e il brano You Don't Know Me. E allora io ricordo a tutti i compagni in ascolto, a chi ne ha la possibilità di organizzare quando più iniziative benefit per i compagni detenuti, specialmente in Italia, specialmente quelli per l'operazione Ardire, che sono un po' in difficoltà economica per quanto riguarda spese legali e anche la sopravvivenza in carcere. Allora, e poi ricordo che a Napoli praticamente il 15 febbraio ci sarà un'iniziativa in solidarietà con Marco Kamenisch alla mensa occupata della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ci sarà una discussione, ci sarà la mostra, ci sarà anche una cena benefit. E allora, l'appuntamento è per il 15 febbraio, l'orario poi lo daremo più in seguito quando bene o male si capirà a che ora iniziare il tutto. Ora si passa alla prossima notizia, che è un'azione, un attacco avvenuto a Glencore, contro Glencore e Credit Suisse. Un comunicato, una rivendicazione che praticamente ci fa avere tradotta lo stesso compagno Marco Kamenisch. Allora, leggiamoci direttamente questa lunga rivendicazione. Nelle ore della mattina del 24 gennaio, nelle ore della prima mattinata del 24 gennaio 2013, abbiamo attaccato in un'azione coordinata con De Razzi il capo di Glencore Glasberg al suo domicilio, Cheri Musweg 6 e Rusk Likon e la Credit Suisse Zurigo Oettingen. I UEF capitale e i loro rappresentanti sono attaccabili. Se in gennaio ogni volta si svolge l'incontro UEF a Davos, i militanti locali hanno l'imbarazzo della scelta. Migliaia di pezzi grossi e boss si riuniscono nelle montagne per ordire i loro traffici e riempirsi la bocca di parolone per promuovere l'assenza di prospettiva per il loro sistema, ed ognuno di loro avrebbe meritato perlomeno un attacco simbolico. Nel quinto anno del più recente picco irruente della crisi ormai cronica, della panoplia delle azioni ostili dei rappresentanti del UEF contro la classe, abbiamo scelto una che riassume nel modo più convincente il ruolo dominante del capitale svizzero nell'acutizzazione delle condizioni di lavoro e di vita a livello mondiale: la megafusione dei due giganti delle materie prime e delle miniere con sede a Zurigo, Glencore e Xstrata, che dopo tanto tergiversare tra interessi capitalistici concorrenziali è ormai effettivamente andata in porto. Non deve stupirci che i lavoratori e le lavoratrici sono esposti nelle crisi proprio in questo settore dell'estrazione delle materie prime agli attacchi più gravi. Se la possibilità di investimenti redditizi diventano rare e interi continenti minacciano di fallire, la concorrenza in questo settore fondamentale assume la massima importanza. Il primo colpo centrava logicamente l'annoso CEO di Glencore a Glensberg. Al suo domicilio, Gary Mosweg 6 a Ruskliton, Glencore è da molti anni partner industriale del UEF. La piovra di Zurigo è nota per le condizioni di lavoro, anche per lo stesso business particolarmente nefante e le strutture di partecipazione opache che passano per subappaltatori con sede nelle Bahamas. Le miniere di Glencore e la sua consorte Xstrata sono sparse dappertutto nel mondo, ma pure nel mondo intero sono in atto delle lotte contro Glencore e Xstrata, sia gli scioperi operaio, lotte indegne contro la minaccia d'espulsione delle proprie terre o, come in Perù, unità guerrigliere in lotta armata. Nel mondo intero la gente lotta con i più e vari modi e mezzi contro il saccheggio delle loro basi di vita e di lavoro, e in questa lotta già fanno spuntare gli embrioni di una prospettiva solidale che indica un superamento degli attuali modi di produzione. Sono queste lotte ed è questa prospettiva che noi qui in Svizzera riprendiamo. Il nostro secondo colpo tocca a Credit Suisse, anche lei naturalmente con eminente rappresentanza a Davos. Ci sono mille ragioni per un attacco contro di una delle banche più grandi ed aggressive del mondo. le speculazioni con i generi alimentari, i licenziamenti di migliaia di impiegati, scommesse contro il popolo greco ed altri popoli, eccetera, eccetera. Pur non dimenticando tutti questi crimini contro la classe lavoratrice, oggi puntiamo la luce dei nostri razzi contro un contesto in particolare. Nel 2011 alla CS con Merrill Lynch e Morgan Stanley fu affidata una delle più grosse scalate in borsa della storia, quella di Glencore. Erano gli esperti per il mercato delle materie prime della CS Thomas Gottstein, Mark Hecklin e Simon Crowley, che allora consigliarono Glencore di come la piovra doveva presentarsi nelle migliori veste di redditività agli occhi avidi del capitale alla ricerca di investimenti. Ed è all'occasione saltò fuori un guadagno milionario per la CS. Ed è evidentemente un'amicizia intimamente colma di coscienza di classe, poiché quando era in ballo la megafusione Glencore Xstrata, tra gli altri fu di nuovo la CS che per risarcimento di 60 milioni di dollari elaborava le condizioni ottimali per Glencore. Sono esattamente queste amicizie offerte anno per anno dal WEF che fanno sì che i proprietari e manager della ricchezza sociale, malgrado l'assenza di parti e di prospettive, sono d'ottimo umore anche quest'anno quando con i loro jet volano a Davos. Così non stupisce che la CS, come già negli anni passati, è tra i cosiddetti partner strategici dell'incontro annuale del WEF. Viva la solidarietà internazionale per una prospettiva rivoluzionaria. E questa era la rivendicazione da parte di questi compagni che hanno attaccato queste sedi che fanno parte del WEF. Allora, non ci ascoltiamo ancora un altro gruppo, loro sono The Acroops, il brano è Machinery of Joy. Allora, erano The Eclipse, brano Machineries of Joy. E allora, ricordiamo gli appuntamenti prima dei saluti. L'appuntamento è per venerdì prossimo alle ore 16 con la diretta d'azione, quella senza lettura, quella solo contro informazione e musica, ovviamente. E poi per la settimana prossima forse ci sarà una variazione di orari, ve lo faremo sapere sicuramente venerdì nella diretta d'azione delle 16. Allora, con questo è tutto, saluto e ringrazio tutti i compagni che ascoltano sempre Radio Azione, e un saluto anche se non lo possono ascoltare, un abbraccio a tutti i detenuti nel mondo. Saluto con un brano di Dieter Nielsen, il brano è Love and Molotov Cocktail, e con noi l'appuntamento è a venerdì ore 16. Radio Azione.